Effetto Mundo. Und deswegen sage ich aus voller Überzeugung, noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute. E anche oggi siamo in compagnia di Giulia Crivelli. Ciao Giulia, per dare uno sguardo ai giornali e media internazionali. Giulia. Buongiorno Piera. Allora, sì, siamo partiti dalla Merkel, abbiamo... raccontaci tutto. Sì, la Merkel che insomma di mamma ce n'è una sola, però tutti i tedeschi, io lo sono per metà, la guardano un po' come una Mutti, cioè una mamma, perché ha questo fare sicuramente molto rassicurante. Ieri era molto attesa in Parlamento, al Bundestag, perché c'è soprattutto l'opposizione alla sua grosse coalizione, scalpita per avere qualche dettaglio in più sul semestre di presidenza europea. Le opposizioni temono molto, e appunto sono già un po' sul piede di guerra, che la Germania sia troppo morbida e troppo morbida con i paesi come l'Italia, e che quindi questo famoso recovery fund favorisca paesi che una certa parte della politica tedesca considera comunque degli spreconi come l'Italia. Certo, sì, ne parlavamo in inizio di effetto giorno dal Consiglio europeo che si sta svolgendo proprio in queste ore. Esatto, e la Merkel ha un po' ribadito con questo suo tono molto calmo, c'è stato anche poi un question time, dice: dobbiamo renderci conto che mai come in questo momento è stato importante l'essere insieme, questa parola bellissima che è Zusammenhalt, in tedesco è una parola unica, perché è vero che certi paesi sono stati colpiti di più, certi di meno, certi erano più deboli, certi erano più forti, ma è la reazione, è il domani che conta per il futuro dell'Unione Europea. E naturalmente i giornali tedeschi danno spazio a questo, anche se poi, visto che c'è del marcio anche in Germania, potremmo dire, nonostante tutti lodino appunto la gestione pubblica della pandemia e della crisi prima sanitaria e poi economica, in realtà lo scandalo, la Tagesspiegel titola per esempio la caduta, il crollo di una superstar, parliamo dell'amministratore delegato di Wirecard, che tra l'altro si chiama Marcus Brown, i giornali non ne hanno fatto tempo a darne conto, ma è la notizia di questi minuti, ha dato le dimissioni, era l'amministratore delegato nonché azionista di questa azienda che attiva nel settore tecnologico, che probabilmente ha un buco, è tutto da capire dove siano finiti questi soldi, di 1,1 miliardi di euro, e la società di revisione EY si era rifiutata di certificare il bilancio. Ecco. E anche l'apertura di Financial Times, perché già ieri il titolo era crollato alla borsa di Francoforte. Ecco, sì, a proposito di Financial Times, insomma, mi dicevi che c'è anche ovviamente commentata la decisione della Corte Suprema sui Dreamers. Sì, questi Dreamers, che sono appunto è un modo in cui vengono, naturalmente pensando al sogno americano, no? Sono circa 700.000 bambini, che in certi casi non sono più bambini ma adolescenti, che erano entrati negli Stati Uniti in modo illegale insieme ai genitori, o magari poi rimasti soli perché i genitori invece da clandestini sono stati rimandati nei paesi di provenienza. L'amministrazione Obama aveva varato questo DACA, che sta per, insomma, è un modo per dare comunque la cittadinanza a questi immigrati di fatto illegali. La Corte Suprema degli Stati Uniti ne dà notizia a Financial Times perché è anche un grande colpo a Donald Trump, alle sue politiche sull'immigrazione. Ieri ha deciso 5-4, quindi per un solo voto, che non può essere, questa legge Obama non può essere cancellata, e New York Times e Washington Post sottolineano che è proprio un po' una cosa da azzeccagarbugli. Il modo in cui Obama aveva fatto passare questa legge resta tutto sommato anticostituzionale, perché ci sarebbe voluto un passaggio al Congresso che non c'era stato, ma a loro volta i legali che per conto di Trump hanno presentato questa richiesta di cancellare questo provvedimento l'hanno presentata in un modo che la Corte Suprema non può accettare. Quindi in realtà non è tanto la sostanza che si mette in discussione, perché bisogna trovare un modo più costituzionale eventualmente per concedere la cittadinanza a queste 700.000 persone, ma è appunto la parte parte legale e quindi Trump diciamo che ha ancora qualche spazio di manovra e sicuramente, sottolineano tutti i giornali, lo userà non tanto come potrebbe anche vederlo non come un punto di debolezza, potremmo vederlo noi osservatori non come un punto di debolezza, ma un punto che lui si giocherà, come dire, vedete che nella sostanza la mia richiesta era giusta, adesso cercheremo di riproporre questa cancellazione. Giulia, andiamo in Gran Bretagna. Allora, ti confesso che io non la conoscevo. In realtà è stato un personaggio straordinario, ho scoperto. Vero, quando appunto, forse perché insomma avrebbe compiuto 103 anni, quindi io e te ne abbiamo qualcuno di meno, Sì. quindi forse siamo scusate a non averla nelle orecchie e negli occhi. Stiamo parlando di Vera Lynn, Dame Vera Lynn, cioè aveva avuto dalla regina la massima onorificenza britannica, era nata nel 1917 e scomparsa ieri, appunto a 103 anni. E ci sono molti giornali che pubblicano delle foto in bianco e nero di lei, che da giovane era anche bellissima. È una cantante, forse una delle più famose cantanti della storia britannica, ed era diventata in particolare famosa perché nella Seconda Guerra Mondiale, questa è una tradizione molto anglosassone, ricordate anche Marilyn Monroe che andava a cantare in Vietnam per i soldati, aveva appunto prestato la sua voce, la sua figura, per intrattenere le truppe e per alzarne, se possibile, un po' il morale. Da qui anche il soprannome di Sweetheart, cioè l'innamorata di tutti i ragazzi che appunto combattevano nella Seconda Guerra Mondiale. Questo che abbiamo sentito è questo brano bellissimo, We'll Meet Again, cioè Ci incontreremo di nuovo, che naturalmente è anche Era un di po' buon auspicio per i soldati, certo. Sì, Non tutti esatto. purtroppo si sono poi rincontrati, ma questa è un'altra faccenda. Andiamo in Francia, che dici? Sì, se vuoi solo perché così, per non sentirci troppo soli in questi, magari appunto nelle inefficienze, alcune inefficienze nella gestione dell'assistenza sanitaria nel Regno Unito, di nuovo sotto accusa al governo Johnson, perché dopo lo scandalo della mancanza di protezioni, mascherine, camici, che già è stato un bel colpo per il governo Johnson, adesso c'è anche quello della app, perché all'inizio doveva essere gestita l'app di tracing, naturalmente l'equivalente della nostra Immuni, avrebbe dovuto essere gestita dall'NHS, il Servizio Sanitario Nazionale, ma in realtà hanno fatto pasticci, forse perché quando si maneggia uno strumento così tecnico, meglio rivolgersi subito ai tecnici, e quindi adesso Johnson chiede aiuto a Google e ai giganti della tecnologia per avere una app che funzioni un po' meglio e che venga scaricata, perché al momento è tutto fermo, si è iniziato, mentre nel Regno Unito è tutto fermo questo processo di tracing. Sì, in Francia è curioso, in Francia perché nel discorso che abbiamo sentito di Angela Merkel, lei è tornata sulla centralità della svolta verde, diciamo, e sappiamo che Non sappiamo niente perché abbiamo perso Giulia e quindi purtroppo non riusciamo a sentire le sue ultime parole in relazione alla sua rassegna stampa internazionale. Eravamo comunque. Giulia, sei tornata con noi? Sì, sono tornata. Sì, volevo solo appunto segnalare che sui giornali francesi, per bocca naturalmente di Emmanuel Macron, che tra l'altro ieri era in visita a Londra sotto la pioggia, c'è la foto di lui davanti alle guardie con i loro bei cappelli neri pelosi con l'ombrello accanto al principe Carlo, è tornato di grande attualità il tema dell'ecologia e di tutti gli investimenti che andranno fatti, dobbiamo farli anche noi in Italia naturalmente, di cui ha parlato anche Angela Merkel. Che guarda caso, durante il suo discorso al Parlamento europeo. Quindi questo è sicuramente un altro grande tema che riguarda tutti i paesi che useranno questo recovery fund o comunque questi fondi europei. E questo ci riporta alla nostra apertura al Consiglio europeo di oggi, molto importante, ne continueremo a parlare naturalmente nei nostri GR24 e nei programmi. Grazie, grazie a Giulia Crivelli, grazie, ci ritroviamo, anzi vi ritroverete perché lunedì tornerà Alessio Maurizi, vi ritroverete lunedì. Ciao Giulia, effetto Buon giorno. weekend a tutti. Grazie, grazie mille. Effetto Giorno è stato condotto da Maria Piera Ceci, realizzato insieme a Jacopo De Franchi, in assistenza a Laura Faggin, in regia Filippo Auregi.